sai cosa mi ha detto? Che l'ordine non l'ha ancora fatto. Cazzo, prendendo per il culo sta, bobo. Lo so che fa così, dice che la, anche la, come l'MB, il mio MB5, ha detto l'ordinato, sono tornata a chiedere, adesso glielo ordino, e me l'ha fatto questo scherzo 2 o 3 volte. Sì, sì, e non ti è fatto tornare in sud? No, adesso me l'ha portato. Ah, no, ma secondo me non le voglio ordinare, secondo me non c'hanno sud, non è possibile, perché... vi ho ordinato già, non un mese, no, 2 mesi fa, l'antenna. Io volevo quella perché quella esce bene. È piccola e esce bene. Invece mi ha abitato in giro. Boh, boh. Non c'è da fidarsi già. No, no, anche la GBC la stessa cosa. Tante cose gli ho ordinato, sì, sì, arriva in settimana. Poi l'ultima volta che ho detto, ascolta, dimmelo, dopo 2 mesi si è incantato perché gli ho detto, ma sono 2 mesi che sto prendendo qui, ma mi stai prendendo in giro. Ha detto che andava a fare l'ordine solo per me, che io devo aspettare a fare un ordine grosso. Ho detto, ma se era quello il problema, te l'avrei pagato io i soldi del trasporto, e non è che... ma non posso stare a ordinare una cosa alla volta, questo e quell'altro. Allora devi dire dall'inizio, non è che devi dire sì sì, la prossima settimana arriva e poi non arriva. Non c'è serietà qua, poi su internet il 3 giorni stavi fatto. Già, ti spiego, io praticamente il primo MB5 me lo dovevo ordinare, ho aspettato tipo 2 mesi, ho ordinato da internet da Bologna, Radio System, ho guardato e me l'hanno spedito, da quando ho fatto l'ordine me l'hanno spedito 10 minuti dopo, e poi 10 minuti dopo, una ventina di minuti dopo, e poi è arrivato dopo un giorno. Fatti il conto. È così, sì sì, ma lì si paga con la carta postale, no? Io lo voglio in contrassegna, se no non ne prendo da internet, perché mi hanno già rubato 200 euro. No, già, io l'ho comprato in contrassegno. Adesso vado sul radiosistema a vedere se ci sono antenne. Cerca, che quello è un bel sito. Non è molto organizzato, devi cercare perché non ha tutte le categorie, devi cioè, mettere sul cercare proprio quello che vuoi, sennò non ti dà tutto. Oh, cosa c'è, Franco? Guarda il segnale che c'hai adesso, così. Adesso facendo un coso, accendo, e vedere quanto aumenta. Guarda, vieni a vedere com'è, quanto è aumentato. Da 6 è diventato 8. Da 6 a 8? Insomma, già tirato. Ho tirato 2 punti, non è mica tanto. Già, va bene. Stefano, ci sei? Perché Stefano stava pulendo l'antenna, deve vedere se esce il video. Yeah, avanti, ciucucciucci. E allora? Forse non ti sento, non mi cambi, non l'hai sentito l'amico che ti ha salutato, a Gico. L'ho sentito basso un po', c'è un po' di propagation. Ciao, Emanuele. Oh yeah. Andare, perciò, cosa stai combinando? Sono uscito adesso, sono tornato a casa, mi sto riposando un pochettino, qui esco col carico, non c'è più fresco, perché non fa uscire adesso, c'è troppo caldo ancora. Quindi abbiamo un grado. Pure quello c'ho. Ricordi. Emanuele, scusa, sto facendo una cosa, su adesso sei molto più forte. Mi ascolti adesso? Sì, adesso ti ascolto perfettamente. Ok, dai. Modulazione bassa adesso. No, è sempre alta. Datemi un secondo che stavo sistemando qua in stazione che non è sorto c'è il PTT. È Franco, dove? Franco, di sorso. Ciao, Gingo. Gingo, me l'ho ascoltato. Allora fa caldo lì. Sì, vabbè, dai. C'è passato l'acqua che ti ho dettato. Sì, da poi su io. Allora, la ti vuoi fare. Purtroppo è così. E poi c'è una roba nulla ancora. Che cosa, Gico? Una roba che doveva sistemare. Non lo so, chiedi a Tonino, non lo so, io non l'ho sentito. sentito a come si fa. Se mi devi aggiungere, tu inteso, hai tanto lì. Ma se quella parte devi dare a me, quello lì non ti devi fare. Senz'altro, già, senz'altro. Quella della sua fine qua ci sta bene, ho già fatto lo spazio, tutto a posto. Mi dovete mandare le misure, quanto era alto. Sì, vabbè, la misura quanto è alta sarà un 10-15. Sì, già ci stanno. Ma anche la Galaxy, eh? Cosa? Ho detto, vuoi anche la Galaxy? Ah, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho più bello lì. Più bello? Eh beh, il mio è nuovo, il mio non c'ha un graffio, non c'ha nulla consumato, niente, tutto sembra di tutto benissimo. E c'è sa che non è consumato, eh? Chi ti ha detto che il mio è consumato, c'è graffio? Il mio non c'ha né graffio né consumato. È bello anche il tuo. E mai tutto aperto, scacciabittato, l'hanno fatto le pulizie, no, no. Cani! Scacciabittato, ma scacciabittato in che senso, scacciabittato? Che sono scacciabittato, no? Che sono una parte di Antisiria? Non è niente come ti scacciabittezzano i nomi. Sto scattando. E ti rapi di bocca. Ah no, io qua senz'altro non ne avrei dato radio. Danni. Ehi, hai guardato Radio System? Non si sa. No, non me lo dà, lo sto mettendo ma non me lo dà. Radio System con la Y. Comunque già per dirti, perché questi fanno prezzi buoni, spedizione gratuita, secondo te tutte, la maggior parte delle cose le ho prese da questo sito anche perché era contrassegno, quindi era sicuro. Poi come ho detto a prezzi bassi e non paghi la spedizione. È buono, ma non riesco a entrare, non me lo... Ti devo mandare il link? Mandamelo, proprio dove ci sono... Non ci riesco, boh, l'ho messo Radio System e non me lo dà. Aspetta allora già che prendo il telefono e te lo mando. Cosa? Aspetta un attimo che prendo il telefono. Fai, Stefano ci sei? Stefano tu sì, te l'ho detto. Però non ha migliorato, forse non c'ha sfogo lì dentro. Ehi, dai, se tu lo sposti fuori possiamo verificare meglio, se puoi, se hai la possibilità. Ehi, ma appunto, magari è proprio fatto lì dentro, vai. Comunque la pulita non mi fa mai male. Ah, ecco. No, vabbè, l'unico punto dove lo puoi mettere è il campo, il resto è tutto rigido, tutto non fa massa. Perché guarda, non si può fare manco nello specchietto come lo fanno quei cani, perché in plastica, cosa lo vedi, scusa? L'unica cosa è, guarda, o nel parafango o nel paraurti. Forse paraurti di plastica, paraurti di la mia. Ma infatti, basta che li metti, quando li traduco, li metti un po' di antirruggine, come hanno fatto quando io l'ho messo sulla cappotta della macchina, io, al centro cappotto, andava che è una meraviglia. Da portatore sparlavo con Alghero, fatti il conto. No, non conviene, perché poi se vai dove ci sono pinete, tocchi gli alberi, col camper lo sai, no, vai da tutte le parti, tocchi i rami degli alberi e cose, invece dove l'hai messa tu va benissimo. Di quello sì, vabbè. Io ne ho regalato una da poco, di quello tipo vecchio che è proprio quella che c'è qui sulla macchina, l'ho regalata. Però l'attacco, quello, la base, diciamo, l'ho lasciata nella macchina quando l'ho venduta, che l'ho cambiata. E l'ho lasciata per non lasciarli tutti. La tipo 120 cavalli, benzina e GPL, 1004, va che è una striscia, dai, è bellissima, va molto bene. No, io a gas ho avuto anche l'acqua, però l'avevo fatto io l'impianto a gas, se ero rinato, spendevo 350 euro al mese per andare a lavorare, poi ne spendevo 130 di gas. E vabbè, già cambia, sì, il gas ti rende di più. Poi adesso le macchine a gas camminano bene, cammina più a gas che a benzina, se ti fidi. Questo è turbo benzina, è anche turbo la mia. 1420 cavalli. Vabbè, già si è arrivato a pagare. Non le volevo prendere i mini Fiat, perché io stavo prendendo Opel e mi trovavo benissimo. Pensa che quella che ho versato va 350.000 km e camminava come il primo giorno che l'ho comprata. Però io mi facevo sempre tagliare tutto quanto. non gli ho mai cambiato né marmita né frizione, nulla. L'ultima cosa che ho cambiato, vabbè, la centralina, ma penso che me l'abbia fatta partire lineare, non me lo chiede nessuno da testa. E gli ho cambiato quello, ho speso 1200 euro, poi ho detto basta, no? Gli facevo la manutenzione giusta, e la mia andava sempre a 5000 come olio, non mettevo altro olio. Sì, perché l'olio è l'anima del motore, se non glielo cambi quando lo devi cambiare si forma un'incrostazione nel motore, tu lo sei meglio di me, e poi ce la butti via la macchina, lo devi fare il motore o tira là. Sì, e ne prendi una seconda mano, magari permessa. Certo, no, non conviene più non fare i motori. Però se ti succede, vabbè, c'è gente magari che prende macchine grosse, a seconda mano, il motore non va bene, ci mettono 1500 euro sul motore, però poi c'è una macchina bella, grossa, di grossa cilindrata, eccetera. Per dire, macchine che vengono in continente, magari sono sfruttate di motore, però sono nuove, tenute bene, devi fare il motore con poche lire, te le prendono poche lire, anche quelle macchine lì te le prendono poche lire perché c'hanno dei chilometri. Poi quando le prendi ti fa il motore e sei a posto. Stai, l'ho parata, sono treni, lasciatelo dire a chi ne ha avuto due, sono treni con le macchine, durano una vita, non lo guarda, non ti arrabbi mai, se devi fare cose che devi fare con la macchina che ti dura, poi il diesel ancora di più. Io c'avevo il benzina e il gas, però l'impianto a gas l'ho fatto io per il bene. Ma dura non è perché sono macchine che hanno motore, se hai quella che il motore genera moto, se GM marchiato, quelle lì durano, cazzo, qua, te ne dimentichi. E cosa vuoi che ti dica? Io ti sto dicendo, l'ho versata con 350.000 km, l'ho venduta a uno, questa l'ha venduta a un'altra persona, questa persona l'ha venduta a una ragazza, sta ancora girando. Io le Fiat che ho avuto le ho cambiato marmita, ho cambiato questo, la frizione, eppure io c'ho un buon piede, me lo dice anche il meccanico, io di freni ne ho cambiato pochi, di frizioni non ne ho cambiato nulla nell'acqua, per dire non ne ho cambiato mai frizione, e l'ho tenuta tanti anni, capito? 12 anni ce l'avevo, mai ci ha mandato frizione. Quella macchina lì, te lo ripeto, sono treni, fanno quella macchina lì è diesel, non ha niente di chilometri. Se quella benzina aveva fatto 350.000 e camminava, faceva 180 km orari come il giorno che l'ho comprata, rumori niente, proprio perfetta. L'unica cosa che si era rotta era una plastica interna perché si seccano le plastiche, e si era rotta la plastica, la volevo cambiare, poi avevo fatto freni, avevo cambiato tutte le gomme, tutto quanto, e poi ho deciso di cambiarmela perché ho detto tanto è vecchia, poi devo viaggiare per lavoro, poi adesso al lavoro non ci sto più andando e niente, mi sono preso una macchina diciamo a gas, ma non me ne sono pentito perché me ne dimentico di metterla. Sì, sincero, l'avevo fatto anch'io da merenda, l'avevo portata a 250 euro, mi aveva rifatto il cielo, sembrava quello della fabbrica, non si capiva che l'avesse rifatto, le ha messo tutto il cartone intero, tutto nuovo le ha messo, l'ha fatto benissimo, guarda, se dici di tenertela, ti ripeto, il cielo sì, dopo tanti anni te lo fa, gamba, vabbè dai. Andare, Stefano, allora, ti devo lasciare che poi devo portare il cane, che faccio da mangiare, adesso è quello porto giù, dai, che adesso c'è fresco e così mi viene bene a portarlo, dai. Ora io. Raga, vi stavo ascoltando. Gianni, ti ho mandato la foto, non sono riuscito a mandarti il link. Vabbè, dai, non c'è problema, ricambita. Già vedrò con calma, vado al computer e lo faccio dal computer, perché lo sto facendo al telefonino. Va bene, dai, ti saluto Riccardo, scusami se mi sono dimenticato di ripassarti il microfono, ma l'ho preso da quello che stavo dicendo, con Stefano siamo una tappa che non ci sentiamo. D'accordo, vai, ciao Stefano, salutami Rita e fatemi sentire ogni tanto, vai, ciao ciao. Che cosa c'è Stefano? Sì, camper, vabbè, abbiamo la cellula. Sì, abbiamo un pick-up americano con la cellula da mettere sopra, sempre americana. Sì, ci piacciono e con quello anche questo fine settimana pensiamo di andare in campeggio. E alterno, questo periodo che non ci stavamo andando nei campeggi, stavamo andando un po' dispersi. E niente, comunque sì, un po' i campeggi già li frequentiamo. Lo so, infatti penso che andremo d'estate adesso un po' anche nei campeggi, quelli normali, e poi quando finirà la stagione, oppure visto che c'era il problema del virus, stavamo andando zona argentiera, quei posti al Ghero, a Stintino. L'ho sentito, noi ce l'abbiamo installato lo stesso il CB nel camper. Già lo so, ci vuole proprio per parlare. Io ho fatto diversi DX con la Spagna all'argentiera lì davanti. Stavo arrivando anche forte, non avevo, come dire, neanche l'Alfa Lima, ero liscio. Ho capito, dai, sentiamo che provo a stanare qualche DX se c'è ancora un po' di propagazione, perché prima c'era e non mi sono fatto un giro. Ciao Stefano, ciao Gianni, ci sentiamo più tardi.